Titano, giovanissimo, incedeva magnifico straniero tra la fantagenia di nani. Lo sai perché sempre ho sprezzato la morte? Io sento in me una vita che nessun Dio ha creato, non generata da nessun mortale. Io credo che per nostro volere noi si esista, solo arbitrariamente, così legati intimamente al tutto. E per questo, perché mi sento senza cominciamento, io mi credo infinito, indistruttibile, ma prodotto la mano d'un pentolaio che può rompere il vaso quando vuole. Ma ciò che vive dentro è ingenerato, divino. Compagno di lotta, dove sei, amico? Ti credo in pace in un paese ignoto, dove un tempo eravamo bambini.